し込めた一人の男が今日も行く。真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ。背が高しろ、背が高しろ、背が高しろ。テニスやカラオケ、ナンパにクラブ、他にすることあるだろうが、触れなきゃ遊べぬ奴らには心に問いかけるぞ。背が高しろ、背が高しろ、背がサタンしろ。 Ben ritrovati su Jet Set Radio Cast, il primo podcast italiano dedicato a Sega, nato da un'idea di Milo Colli. Sono Superstar Siero e ho penato l'inferno per mettere insieme questo episodio, ma tutto sommato credo che ne sia valsa la pena. Data la natura fortemente bootleg di questa puntata, la qualità della registrazione non è il massimo, ma è un piccolo prezzo da pagare per poter godere di una selezione di tracce live ad opera di H, la formazione All Star composta da alcuni dei migliori musicisti in casa Sega. Se c'è una cosa che non è mai mancata a Sega anche in questi anni difficili, sono proprio i musicisti di talento, e lo spettacolo dal vivo offerto da H Sega Sound Unit lo scorso 16 marzo a Tokyo ne è la dimostrazione. L'importanza della serata però non si è limitata alla performance degli H, capitanati da un esaltatissimo Mitsuyoshi. Il piatto forte è stato infatti la presenza di una vera e propria icona Sega dell'era Saturn. È quindi con orgoglio ed emozione che vado a presentare l'ospite speciale di questa puntata. In esclusiva nazionale su Jet Set Radio Cast, il ritorno ufficiale di una leggenda vivente. Segata Sanshiro! Segata Sanshiro Fukashi! いやー、セガと三四郎こと藤岡弘、いやー、宇宙より呼び戻してくれてありがとう。いやー、今こそセガと三四郎の生き方が求められてる。愛と夢と勇気を持って生きる。人生はサバイバル。生きて生きて生き抜くな。リスクは当然だ。今日はみんなと会えて嬉しい。大いに楽しもう。おお。いやー嬉しいね。 È una gioia poter rivedere il nostro eroe in forma smagliante. Ripensando a quando l'abbiamo visto per l'ultima volta, osservandolo impotenti con il groppo in gola, compiere l'estremo sacrificio per deviare un gigantesco missile diretto al quartier generale di Sega. Non parlando giapponese non ho capito una parola di quello che ha detto. Mi sono però informato su vari siti e il senso dovrebbe essere più o meno: grazie per avermi riportato indietro dallo spazio. Essendo una serata presentata da Sega, era prevedibile un po' di promozione, e quella che state ascoltando è The Battle for the Dream, dalla colonna sonora del recente Yakuza 5, che speriamo prima o poi possa arrivare anche da noi. We'll be right back. Proprio in questi giorni è apparso in rete un sito teaser che anticipa un nuovo titolo Sega per PlayStation 3 e Vita che sarà rivelato il 28 marzo. Il sito mostra un rivolo di sabbia che scende dall'alto, accumulandosi sul terreno. Certo, è un indizio piuttosto vago, ma la forma sferica che si è andata a delineare col passare dei giorni, unita allo sfondo che ha tutta l'aria di essere un prato, ha lasciato intendere a molti che possa trattarsi di un nuovo titolo sportivo, magari una nuova versione di J-League Pro Soccer, che per chi non lo conoscesse è una sorta di football manager alla giapponese. E se fosse un nuovo Victory Goal? Troppo bello per essere vero. Nell'attesa dell'annuncio incrociamo le dita ascoltando un bel brano propiziatorio, introdotto dalla chitarra di Hidenori Shoji. Victory goal, 夢に向かって飛び立て Victory goal, 未来へと続く空 Come on! ゴールはまだ見えないけれど今はまだ走り続けるだけで鼓動を感じてるこの時決して諦めたりなどしない涙流した日を忘れるな心に誓った夢叫んだ Victory goal 夢に向かって飛び立て Victory goal 自由へと続く空 Victory goal 夢に向かって飛び立て Victory goal 自由へと続く空 Ovviamente i pezzi dedicati al Sega Saturn l'hanno fatta da padrone durante il concerto e quindi ascoltiamo subito un altro brano, quello che personalmente mi è piaciuto di più, da Cyber Troopers Virtual On, In the Blue Sky. One, two, hey! Nella seconda metà degli anni 90, Virtua Fighter godette di una trasposizione animata, arrivata anche da noi. In Italia, per tutta la serie, la sigla fu la versione cantata in italiano della prima sigla giapponese, Wild Vision, mentre in Giappone l'ultima parte dell'anime fu accompagnata dalla sigla Ai Gata Rinaize, cantata dallo stesso Mitsuyoshi e quindi proposta durante la serata in questa bella versione con la partecipazione di Ari Sanoto. 夜空を流れた八つの煌星胸の奥に輝くまでファイト傷つきながらファイト人はなぜ戦う。どこかで本当の自分に出会うためさ。 愛が足りないぜ、こと同じ未来。飽き飽きさ、強くなれ、優しさを知るまで戦え。 トランペット。 涙の彼方に揺らめく楽園、蜃気楼や死ねえ魔じゃない命。傷つきながら人はまた旅立つ。嵐の夜海を渡る。 叩き明かせ夢が足りない。諦めてばかりじゃ負け犬さ。熱くなれ怯えてる自分と戦え。希望。 ギター左翔士、トランペット福山、キーボード披露、タンバリン検索、ノッチ、ボーカルのデスミスだけでした。一覧一部、ヘネ。 9時20分過ぎにもう一度登場します。皆さんまた盛り上がろうぜ。さあこの後はお待ちかね、のち。 Durante il corso della serata ha avuto largo spazio un'intervista con Hiroshi Fujioka, l'attore che interpreta Segata Sanshiro, e Koji Ando, produttore della serie di spot che l'hanno reso celebre. Ne cito un paio dei miei preferiti, quello in cui Segata Sanshiro, travestito da Babbo Natale, terrorizza un gruppo di bambini prima di donare loro un Saturn, e quello di Bomberman, in cui semplicemente esegue una proiezione su uno sventurato avversario causandone l'esplosione. Curiosamente, durante la proiezione degli spot che hanno ripercorso la storia di anni davvero magici, il volto di molte comparse, non tutte, è stato censurato, probabilmente per una questione legale, con la classica barretta nera sugli occhi, rendendo, se possibile, ancora più folli ed esilaranti le imprese di Segata Sanshiro. Pur non avendo potuto apprezzare a fondo questa parte a causa della barriera linguistica, il messaggio di fondo appare chiaro, è sempre lo stesso: dovete giocare al Sega Saturn fino a spezzarvi le dita. Siamo giunti alla fine di questa puntata. Ci auguriamo che il ritorno di Segata Sanshiro possa rappresentare qualcosa di più di una semplice operazione nostalgia e che sia di buon auspicio per un futuro ricco di novità importanti in casa Sega. Vi rimando al sito di Sega World Italia, dove potete trovare la lineup completa di H e la scaletta della serata, insieme alle foto più significative dell'evento e del bellissimo merchandise. Ringrazio come sempre Schubert, sperando di poterlo risentire presto al microfono di Jet Set Radiocast, e vi lascio in compagnia del pezzo che ha chiuso questa serata speciale. Non poteva essere altro che la canzone di Segata Sanshiro, inno di Jet Set Radiocast, in questa commovente versione corale. Alla prossima puntata! セガタさん、しろ！指が折れるまで！指が折れるまで！ せつなの快楽追い続けても虚しい余生が残るだけで、 極めの奴らには体に叩き込むぞ。 Radio, radio.